2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 1 novembre 2008, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024, scritto in cifra 2024 e radio24.it. Come sempre vi ricordo di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast di Radio 24, in modo particolare di 2024, per scaricare gratuitamente attraverso il vostro collegamento ad internet la nostra trasmissione. Avete la possibilità quindi di aggiornare settimana dopo settimana il file MP3, anche di archiviare le puntate di 2024 e soprattutto di riascoltarle quando preferite, sullo strumento che preferite: il vostro computer, il lettore di file MP3, magari una chiavetta USB collegata all'autoradio. Insomma, ci sono varie possibilità, varie modalità. Di che cosa ci occuperemo in questa puntata? Oggi parleremo di banda larga, dell'evoluzione della banda larga, ma parleremo anche dei dati che sempre più spesso aumentano nelle nostre case, e cercheremo di capire come archiviarli e come mantenerli sicuri. Alcune notizie della settimana: la prima riguarda Google, che ha esteso anche ad alcune città italiane il servizio Street View, servizio che consente agli utenti di Google Maps di vedere a 360 gradi le vie delle città, con dettagli su palazzi, parchi, arredi urbani, insomma tutto quello che vede una persona mentre passeggia per strada. Per ora il servizio copre Milano, Roma, Firenze, la zona del lago di Como e Cuneo, che è coperta già da luglio, quando ha fatto tappa il Tour de France. Negli Stati Uniti sono oltre 50 le città coperte da Street View e il servizio è attivo in alcune zone dell'Australia, del Giappone e in alcune città di Francia e Spagna. L'Italia è quindi il terzo paese europeo ad offrire Street View. Sono state attivate anche alcune collaborazioni. Il servizio è stato infatti integrato nel portale turistico della Toscana, www.intoscana.it, e sulle mappe di Google sarà possibile trovare gli immobili di Tecnocasa. Quindi uno vuole comprare una casa, magari va sulla mappa, vede dove questa casa si trova e poi può entrare nei dettagli dell'immobile. Del resto, se uno si chiede perché un'azienda investe milioni di dollari per fotografare migliaia di chilometri di strade, la risposta sta proprio in queste collaborazioni e nel posizionamento di messaggi pubblicitari sulle mappe. Questo è il business. Del resto ne abbiamo parlato a 2024. Ricordiamo anche che in Italia è attivo un servizio che al momento giudicherei migliore rispetto a Street View, se non altro per la diffusione capillare in buona parte dell'Italia. Si tratta di Visual di Pagine Gialle. Lo trovate andando sul sito internet di Pagine Gialle oppure facendo visual.paginegialle.it. C'è un'altra notizia che riguarda Google. Sapete che esiste un progetto per digitalizzare tutti i libri? Beh, diciamo che Google ha come progetto la digitalizzazione di tutto quello che conosciamo al mondo, ma adesso parliamo di libri, o se non altro, se non tutti, almeno un grande numero di volumi sono già archiviati. Finora Google ha incontrato parecchie difficoltà e resistenze, soprattutto da parte degli editori, che in alcuni casi avevano portato Google in tribunale. Bene, questa settimana è stato raggiunto un accordo che molti definiscono storico tra autori e case editrici, che apre la strada alla possibilità di avere a disposizione sul web milioni di libri protetti dal diritto d'autore, la possibilità di sfogliarli e anche di acquistarne eventualmente una copia. In base a questo accordo Google pagherà 125 milioni di dollari per creare il cosiddetto Book Rights Registry, in cui autori ed editori potranno registrare le proprie opere e ricevere compensi provenienti dalla vendita dei libri. Quindi sicuramente un accordo storico, o comunque un accordo che cambia un po' lo scenario. Quindi Google ha via libera verso la digitalizzazione di un grande numero di libri. Questo accordo vale per gli Stati Uniti, ma poi probabilmente verrà esteso anche ad altre parti del mondo. Dunque, un'altra notizia riguarda Microsoft, che ha presentato questa settimana agli sviluppatori, quindi una cosa da tecnici per il momento, l'anteprima di Windows 7, che potrebbe essere disponibile già dal prossimo anno in versione beta e all'inizio del 2010 in versione definitiva. Un calendario così accelerato conferma che Microsoft vuole il prima possibile mettere sul mercato un sistema operativo che cancelli i problemi di vista, che cancelli proprio vista definitivamente. Windows 7 dovrebbe essere adatto anche ai netbook, almeno in base alla presentazione che è stata fatta negli Stati Uniti, quindi a questi piccoli computer portatili che stanno avendo un successo inaspettato, un grande successo. Abbiamo parlato recentemente anche dei netbook che in alcuni casi montano come sistema operativo Linux, un sistema operativo molto meno esigente in termini di risorse rispetto a Windows. E a proposito di Linux, mentre Microsoft lavora al nuovo Windows, esce ed è disponibile online gratuitamente la nuova versione di Ubuntu, la 8.10, una delle distribuzioni Linux di maggiore successo e una delle più semplici da installare. Questa versione si chiama, come tradizione, con il nome di un animale. Questa volta è stato scelto lo stambecco, nome completo lo stambecco intrepido, quindi Ubuntu 8.10, lo stambecco intrepido. 8.10 sta per 8 2008, 10 il mese, perché è uscita da pochi giorni questa versione, quindi nel mese di ottobre. Per conoscere meglio Linux e provarlo, se avete voglia, andate su ubuntu.com, quindi molto semplice. Ubuntu, lo ricordiamo, è un progetto supportato da un'azienda britannica, la Canonical, che è stata fondata dal miliardario sudafricano Mike Shuttleworth. Se vi siete documentati su Linux e avete letto qualche cosa, insomma, questo è un personaggio piuttosto noto, è un grande sostenitore del software libero. Oggi, come dicevo, parliamo anche di dati che aumentano nelle nostre case. Partiamo proprio da questa considerazione, una considerazione che facciamo spesso. 2024, nelle nostre case c'è un numero crescente di dati digitali, testo, fotografie, video, musica, eccetera eccetera. Alcune stime ci dicono che tra qualche anno saranno i privati e non più le aziende i più grandi produttori di dati. Ma dove si mettono, dove si archivia questa grande mole di dati? Beh, finito lo spazio sul disco, nel nostro computer si può acquistare un hard disk portatile autoalimentato, ad esempio, molto comodo. Oggi ce ne sono di molto capienti, ad esempio un 500 GB lo si trova a prezzi inferiori ai 100 euro, oppure si può comprare un hard disk ancora più capiente da tenere in casa. C'è un'ulteriore, forse una ultima recente possibilità, come ci spiega Giacomo Mosca di Iomega Italia. L'ultima frontiera, diciamo così, nel settore home, nel settore della casa digitale, è quella del network. Cosa vuol dire? Vuol dire che sempre più spesso oggi le case hanno più di un computer, o magari non sanno di avere più di un computer perché hanno delle periferiche, come per esempio console, game console, le varie PlayStation, Xbox, Nintendo, che sono in realtà dei veri e propri strumenti di networking da un certo punto di vista, e possono elaborare dei contenuti digitali, eventualmente visualizzarli su una televisione, e possono essere gestiti sulla rete. La sfida qui è fornire delle apparecchiature di storage in rete che possano essere condivise e gestite da tutte queste periferiche casalinghe, chiamiamole così, e che però dall'altra parte siano periferiche PC, IT, a tutti gli effetti, e quindi accessibili anche dai personal computer. Ripartendo proprio da qua, noi oggi vediamo strumenti che fino a qualche tempo fa vedevamo solo in uffici o in aziende, soluzioni che entrano sempre più spesso in casa, chiamate in vario modo. Che cosa può fare e come posso io utilizzare un prodotto di questo tipo oggi? Partiamo dalla semplicità d'uso, che è fondamentale per questo tipo di prodotti. È vero che abbiamo uno storage di rete, e che addirittura un informatico potrebbe chiamarlo un file server, che quindi vuol dire con possibilità di protezione dei dati, eccetera. Ma tutto questo, dal punto di vista dell'utente finale, è astratto. Cioè l'utente finale non vede la complessità della tecnologia nel caso della nostra applicazione. Tutto quello che l'utente finale domestico vedrà è la possibilità di condividere dei dati, quindi delle cartelle che possono essere accessibili dai vari computer e, come dicevo prima, addirittura da altre periferiche multimediali come lettori MP3, lettori iTunes, game console. L'altra cosa fondamentale è che cosa ci faccio in casa. Dal punto di vista del multimedia, quindi della grafica, dell'audio e del video, queste apparecchiature sono praticamente dei jukebox multimediali che servono come library, come librerie di contenuti multimediali per tutta la casa. Dal punto di vista invece un pochettino più business, chiamiamolo così, che può esistere anche all'interno di una casa, sono device di sicurezza per il backup. Un'altra frontiera che può sembrare molto vicina alla fantascienza, in realtà è oramai una esperienza che può diventare comune, molto semplice, quella che viene definita del cloud computing con un termine molto affascinante. Si tratta in realtà di soluzioni per avere uno spazio di storage anche online. Ci puoi spiegare come funziona e soprattutto come si collega questo alla mia unità di backup che ho in casa? Cloud computing, tradotto per l'utente, per il piccolo utente, per l'utente home o l'utente di piccolo ufficio, significa poter disporre di uno spazio di salvataggio dei dati, di backup dei dati, che non deve essere più legato all'ufficio o alla casa stessa e quindi a una periferica che risiede fisicamente in casa. Il software che Yomega mette a disposizione, per esempio con queste soluzioni, consente di gestire un backup, diremo, per facilitare il concetto, in internet. Dal punto di vista dell'utilizzatore non cambia praticamente nulla. Invece di scegliere un disco locale come destinazione del backup, l'utilizzatore sceglierà come destinazione del backup un servizio, questo cloud, questa nuvola, che è in realtà uno spazio di storage disponibile su internet. Il vantaggio ulteriore di questa soluzione è che a questo punto, essendo il mio storage salvato su internet, diventa accessibile da qualunque locazione. Quindi io posso non essere più a casa, ma avere ancora a disposizione i miei dati dovunque io mi trovi. Ci puoi fare capire quanto costano queste soluzioni? Quali sono i livelli, i vari livelli? Il servizio che si occupa di questa gestione si chiama Mozzi. Mozzi è un servizio che offre gratuitamente, all'acquisto appunto di un'apparecchiatura Yomega, 2 GB di spazio disponibile sul cloud, sulla nuvola, quindi sullo storage in internet. Però è possibile acquistare spazi infiniti, e quindi uno storage illimitato, a un'offerta commerciale che arriva a €4,95 al mese. I servizi di questo genere non esistono moltissimi, anche se ogni mese c'è qualche cosa di nuovo in rete. Recentemente abbiamo parlato, 2024, di Botte di Ferro, un servizio che permette anche il salvataggio di dati online, oltre che strumenti di collaborazione. È un servizio italiano, www.botteferro.com. Il nome è tutto un programma. E quello invece che abbiamo citato poco fa è Mozzi, M-O-Z-Y. Siete all'ascolto di 2024, il nostro indirizzo è 2024@radio24.it, scriveteci tranquillamente, cercheremo di rispondere ai vostri messaggi, anche alle vostre proposte. Stiamo parlando dei dischi moderni che si attaccano alle reti che abbiamo in casa, oppure anche al solo computer che abbiamo in casa, per garantire uno spazio adeguato ai nostri dati che si moltiplicano sempre di più, e anche per mantenere i dati sicuri. E quindi queste sono soluzioni, come abbiamo detto, anche per il backup. Ma quali sono le caratteristiche? Ci aiuta oggi Simone Zanardi dal laboratorio di PC Professionale. Simone, bentornato a 2024. Ciao Enrico, grazie anche a te. Simone, se uno cerca in negozio oppure cerca online un prodotto di questo genere, spesso vengono definiti NAS. Si tratta di piccoli server, sostanzialmente, anche se sono dedicati oramai alle case, quindi sono prodotti consumer. Ma spiegaci meglio di che cosa stiamo parlando. Come dicevi tu giustamente, Enrico, il NAS è un piccolo server che contiene 2 o più hard disk tipicamente, e che è specializzato in una funzione essenzialmente: fornire spazio di storage, quindi i propri dischi, a tutti i computer, tutti i terminali della rete locale. Quindi io ho a disposizione questo piccolo dispositivo che contiene 2 o più hard disk, e i file, le cartelle che sono in questi hard disk possono essere scritti, letti da tutti i computer della rete. Vogliamo specificare, vogliamo spiegare agli ascoltatori che assomigliano ad hard disk esterni, ma non sono esattamente degli hard disk esterni. Perché? Esattamente, questo è un errore comune che si può fare: confondere un NAS con un semplice disco USB come quelli che si usano spesso al giorno d'oggi. Beh, i NAS, come dicevi giustamente, sono dispositivi di rete, quindi sono dei piccoli server, hanno una propria intelligenza, montano a bordo dei servizi evoluti che sono in grado di gestire autonomamente dai PC, quindi senza che serva un PC attivo, sono in grado di gestire determinate funzioni anche parecchio evolute, come per esempio quelle che accennavi di backup. Nascono in ambito aziendale decine di anni fa, proprio per l'esigenza di aggiungere spazio senza intervenire direttamente sulle macchine di produzione. Negli ultimi anni si sono diffuse anche in ambito piccola media azienda e anche in casa, proprio perché è cambiato il modo di interpretare l'informatica in casa. Poi a tutto ciò ha contribuito anche l'abbassamento del prezzo. Grosso modo, a che punto siamo arrivati? Beh, un NAS con due dischi, che tipicamente è considerato l'entry level, costa dai 300 ai 400 euro con un tera di spazio. Stiamo parlando all'incirca, molto all'incirca, del doppio di quanto costerebbe lo stesso spazio per un semplice disco USB. Ma i servizi e le funzioni che sono a bordo del NAS sono molto superiori e più evoluti. Ecco. Esattamente, quindi non parliamo solo di spazi, ma, come tu dicevi, di intelligenza che serve per gestire alcuni servizi. A proposito di intelligenza, qui sopra c'è un sistema operativo vero e proprio, visto che anche recentemente ci siamo occupati di Linux a 2024, diciamo che qua il sistema operativo è Linux. Sì, la quasi totalità di questi dispositivi monta a bordo e basato su un Linux personalizzato, in modo da essere adattato alle esigenze, essere molto leggero, molto agile, ma essenzialmente sono tutti dispositivi Linux. Ed è interessante notare dal punto di vista hardware che sono dispositivi che sono pensati per l'utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi a differenza del PC domestico, che magari non è pensato per rimanere sempre acceso, questi dispositivi possono stare accesi anche durante tutta la notte, anche grazie al sistema operativo che è particolarmente agile. Abbiamo accennato più di una volta ai servizi, abbiamo detto che sono diversi dai semplici hard disk. Allora, che cosa fanno questi NAS? Beh, essenzialmente, in primo luogo, permettono di gestire lo spazio in modo più granulare, si dice, cioè io posso assegnare i diritti di accesso alle risorse che sono sul NAS in base a utenti, gruppi di lavoro, e quindi in ambito domestico un classico esempio può essere il padre di famiglia che non vuole che i propri file di lavoro siano inavvertitamente cancellati dalla moglie, può creare una propria sezione del NAS a cui solo lui ha accesso, oppure la sezione in cui il figlio conserva i salvataggi dei propri videogiochi non sono accessibili al padre o alla madre. Sì. Quindi gestione granulare dello spazio, quindi una gestione voluta con gruppi di lavoro, accessi personalizzati, ognuno ha la propria password, può accedere al proprio spazio. Per fare queste cose è necessaria una competenza particolare o no, è molto semplice? Assolutamente no, la gestione di questi dispositivi è relativamente semplice. Come livello di complessità possiamo paragonarlo a quello di un piccolo router di accesso di casa, quindi c'è una semplice interfaccia web, come se accedessimo a un sito internet, e in poche schermate grafiche abbastanza lineari si possono configurare i permessi e le password. Senti, una cosa molto importante, e tra l'altro è il motivo per cui io circa un anno fa ho acquistato un prodotto del genere, la sicurezza. Io avevo l'incubo del backup, facevo backup con CD, DVD, eccetera, però avevo una gestione insomma poco regolare del backup, del salvataggio dei dati, che è fondamentale. Oggi, come si dice spesso, come molti dicono, più che la macchina, più che il computer, sono importanti i dati. Il problema è se perdiamo i dati, non tanto il computer. Sì, sì. Questi i NAS nascono anche per fornire sicurezza e affidabilità a più livelli. Innanzitutto con i sistemi di backup, come giustamente dicevi tu, quindi tutti questi prodotti permettono di pianificare dei backup periodici dei PC di casa sul NAS, quindi noi possiamo per esempio impostare che tutte le sere o tutte le settimane parta automaticamente una copia dei dati sensibili che sono sul nostro PC verso il NAS, in modo tale che in caso di guasto, di problemi sulla macchina, possiamo ripristinare i dati direttamente dal NAS. Alcuni dispositivi, in verità quelli più riservati alle aziende che alla casa, permettono addirittura di fare il backup di immagini dell'intero sistema, quindi possiamo ripristinare proprio l'immagine in toto del sistema operativo. Però comunque anche l'idea di poter salvare i propri dati in modo periodico senza doversi preoccupare di ricordarsi di fare il backup è importante. Questa è una cosa. E poi, una cosa che non abbiamo ancora detto, essendo dotati di due o più hard disk, questi dispositivi possono essere configurati nel cosiddetto mirroring, cioè con i due dischi, due o più dischi che sono collegati, che hanno delle repliche al loro interno dei dati. Quindi in caso di guasto a un singolo disco non perdiamo nulla, possiamo sostituirlo perché sugli altri dischi sono presenti i dati comunque. Sì, che abbiamo in magazzino. Ci sono altre cose, e questi strumenti possono fare altre cose. Ad esempio gli si possono attaccare delle periferiche. Esattamente. Questi dispositivi sono quasi sempre dotati di porta, uno o più porte USB. Le porte USB possono essere usate per una infinità di scopi. ad esempio collegare una stampante che poi è condivisa a sua volta in rete, collegare un altro disco esterno per aumentare ulteriormente lo spazio di storage, o per funzioni un pochettino più sfiziose come possa essere per esempio la condivisione di webcam oppure la gestione evoluta dei gruppi di continuità, quei piccoli scatolotti che servono a mantenere l'alimentazione quando salta la corrente. Beh, questi dispositivi, i gruppi di continuità per la casa, generalmente hanno un'autonomia di pochi minuti, decine di minuti. Tramite porta USB il gruppo di continuità può avvertire il NAS che è saltata la corrente e il NAS si spegne dolcemente prima che anche il gruppo di continuità esaurisca la propria carica, quindi senza perdita di dati. Quindi anche qui all'insegna dell'affidabilità e della sicurezza. Sì, poi c'è un altro capitolo, la multimedialità. Questa è un'altra cosa interessante. Beh, a proposito di periferiche, si possono attaccare ad esempio macchine fotografiche e trasferire dati. Questa è un'altra funzione molto carina. Se per esempio dopo un weekend torniamo a casa con la nostra macchina fotografica con su qualche decina o centinaia di foto, possiamo collegare via USB la macchina fotografica al NAS e con la pressione di un semplice pulsante che è su questi dispositivi trasferiamo automaticamente tutto il contenuto della memory card, quindi della macchina fotografica, sul NAS. Quindi abbiamo una sorta di backup in tempo reale di tutte le nostre foto su questo dispositivo. Dunque, questi strumenti sono, come abbiamo detto, collegati in rete e vivono indipendentemente dal computer. Molto spesso li si utilizza mentre abbiamo il computer acceso, perché appunto dal computer accediamo ai dati che sono salvati sul NAS, ma non è detto che questo avvenga sempre. Ad esempio, possiamo tenere acceso il NAS, tenere acceso il nostro router di casa e addirittura ci sono servizi via internet che ci permettono di in remoto di accedere ai dati del NAS. Questo giusto per fare un esempio, quindi uno potrebbe da qualsiasi computer del mondo collegato in rete accedere ai dati di casa propria. Ma io ho citato questa particolarità, questa caratteristica, cioè che possono vivere da soli senza il computer, perché alcuni di questi strumenti sono dotati di, chiamiamole, funzionalità multimediali. Spieghiamo di che cosa stiamo parlando. Sì, essendosi spostati dall'ambito aziendale a quello consumer, i NAS si sono adattati per le esigenze degli utenti di ultima generazione. Abbiamo detto che tutti noi abbiamo più o meno file multimediali in casa. Molti di questi dispositivi implementano un servizio che si chiama tecnicamente Universal Plug and Play Audio Video, che permette essenzialmente di condividere audio, video, immagini direttamente sulla televisione o sull'impianto Wi-Fi. Come? Senza bisogno di alcun PC. I PC possono essere spenti. Essendo dotati di un piccolo, come si dice, media extender da posizionare sotto l'impianto audio stereo di casa, noi possiamo, ad esempio, il classico media extender che va di moda adesso sono le console di ultima generazione, PlayStation 3, Xbox 360. Queste console sono in grado di accedere al NAS, riconoscere i file multimediali presenti sul NAS e visualizzarli sulla televisione o sull'impianto stereo. Quindi, se voglio vedermi un film che ho presente sul NAS invece che sul piccolo monitor del mio PC, voglio vedere sul mio plasma 42-50 pollici, lo posso fare tramite PlayStation o Xbox. C'è un ultimo servizio, chiamiamolo così, che rischia di essere illegale, probabilmente lo è, o meglio, l'uso che poi se ne fa, l'uso al quale è destinato questo servizio rischia di essere illegale, però c'è una tendenza di mercato che vogliamo sottolineare. A proposito dell'indipendenza che questi strumenti hanno dal computer, esiste a bordo una cosa che si chiama Download Station. Simone, ci spieghi che cos'è? Sì, essenzialmente si tratta di un piccolo servizio a bordo del NAS Linux che permette di avviare dei download come se fossero su un PC. Download che possono avvenire tramite FTP o, nella maggior parte dei casi, tramite le piattaforme peer-to-peer classiche, ad esempio BitTorrent. Quindi se un download tipicamente richiede qualche ora, noi possiamo avviare il download e lasciare il NAS acceso di notte che scarichi per noi i nostri contenuti, ovviamente legali. Questa è una cosa interessante che si sta comunque sempre più diffondendo, perché questi piccoli computer, questi piccoli server sono dotati di un'intelligenza che gli permette di svolgere sempre più compiti e togliere carico dal PC, carico non tanto elaborativo ma carico di funzioni. Queste cose sono gestite autonomamente da questi NAS. Bene, grazie a Simone Zanardi dal laboratorio di PC professionale. Simone, a presto e buon lavoro. Ciao Enrico. Dicevamo poco fa della possibilità di avviare su questi dispositivi delle sessioni di download. Del resto l'industria asseconda una richiesta di molti utenti, ma sappiamo benissimo che la maggior parte dei download coinvolge file protetti dal diritto d'autore ed è quindi illegale, e qua ci sono due problemi. Il primo è di carattere legale: anche questa settimana ci sono state persone denunciate in Italia per file sharing, quindi non è vero che tutto ciò che avviene in rete avviene nel segreto. Il secondo è legato alla banda occupata da questi servizi. Molti operatori, anche in Italia, hanno seri problemi a gestire la banda, e il rischio è che questo malcostume, quello del file sharing, del download illegale di file, si ripercuota poi sui prezzi delle connessioni o peggio ancora sul concetto di neutralità della rete che ha fatto crescere e sviluppare internet. Di questo parleremo presto perché è un serio problema, ne abbiamo anche parlato in passato. Bentornati a 2024, sono Enrico Pagliarini, seguiteci nel sabato, nel pomeriggio del sabato di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, oppure ci trovate anche online. Come sempre vi ricordo di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Se non l'avete mai provato è sicuramente una nuova esperienza per ascoltare la radio. E sicuramente buona parte della radio del futuro sarà fatta ed erogata via podcast. Bene, tutte le informazioni sono online su www.radio24.it, oppure inviateci una email, scriveteci, vi daremo tutte le informazioni, le istruzioni per abbonarvi al servizio podcast, per scaricare gratuitamente il file della nostra trasmissione, il file MP3, aggiornandolo settimana dopo settimana, anche facendo un archivio personale, poi soprattutto per riascoltare 2024 quando preferite, quando volete, sul vostro lettore di file MP3, sul vostro computer. Insomma, decidete poi voi che cosa, che uso farne di questo file. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Abbiamo parlato poco fa dei NAS, di questi hard disk esterni, di queste vere e proprie console, jukebox, chiamiamoli così, per fare il backup, per salvare i dati che abbiamo in casa, e abbiamo detto che questi strumenti funzionano anche con il PC spento. Questa è una tendenza estremamente interessante, molto interessante non solo per le nostre case ma anche per il mercato. Ne abbiamo parlato con Roberto Azzano, che è vicepresidente di ANFOV e practice leader di Net Consulting. Almeno un paio di linee di evoluzione del web vanno in questo senso. La prima è quella che si può chiamare, o che vedo che si suole chiamare, digital home, cioè tutto quell'insieme di device, oggetti, aggeggi, terminali, tipicamente i mobile player piuttosto che gli home server, eccetera, eccetera, che sono già ed entreranno sempre di più nelle case degli italiani. In questo caso è la consumer electronics molto spesso che guida questo mercato, e che, dicono i dati di vendita, hanno già e avranno sempre più successo quando sono connettibili in rete. Cioè tutti questi oggetti che fino a poco tempo fa stavano nelle tasche o nelle case, una radio normalissima anche, ed erano non connettibili ad internet, adesso trovo che sono sempre più connettibili in rete, non solo, ma hanno successo nella misura in cui sono connettibili in rete. Sostanzialmente significa immaginarsi un mondo in cui entro dentro il web per fare tutta una serie di cose, scaricare musica, accedere informazione, guardare la mail, abbastanza simile a quello che faccio adesso, senza passare dal PC o addirittura PC spento. Questa è la prima. La seconda evoluzione è quella che vede le strategie dei broadcaster, cioè gli editori televisivi, incrociare il web. È evidente che per gli editori televisivi il web rappresenta una risorsa, perché può essere visto come un ulteriore canale per avere audience rispetto alle loro produzioni, laddove nella TV normale le loro produzioni vivono problemi di calo di audience, specialmente sulle fasce giovanili. L'esperienza dice che si passerà, o si sta già passando, si è già superata in molti paesi questa esperienza da PC, cioè io vedo su PC queste cose, per passare a io vedo, accedo al web per guardare, godere di una produzione da televisore, anche ancora una volta da PC spento. Ora, questo non vuol dire che il PC è finito sul ruolo, per l'amor di Dio, voglio dire, semplicemente significa che si aprono nuove modalità di accesso e di fruizione al web che non hanno bisogno di passare dal PC. Dovrebbe anche essere visto in modo molto positivo questo, perché fino ad ora tutte le statistiche sul futuro, per esempio, della internet in Italia, della banda larga in Italia, diciamocelo, hanno avuto come plafond e come termine di riferimento il numero di famiglie col PC. Oltre il numero di famiglie col PC, uno non può andare a offrire broadband, perché che ci attacca nella visione tradizionale se uno non sa usare il PC? Con una visione di questo genere ci possiamo immaginare anche un mondo di famiglie broadband che non hanno un PC. Tutte queste considerazioni e molte delle considerazioni che facciamo spesso 2024 portano molti a dire che è necessaria più banda. Lo dicevamo anche poco fa con il peer-to-peer, molti operatori si lamentano perché la banda non è più sufficiente. Quindi per molti è necessario costruire una rete più veloce, capace di trasportare una quantità di dati maggiori. Il dibattito è molto acceso in tutto il mondo, non solo in Europa, naturalmente anche in Italia. Sentiamo che cosa ha detto ad un recente convegno Paolo Romani, che è sottosegretario con delega alle comunicazioni al Ministero per lo Sviluppo Economico. Potremmo dire il Ministro delle Comunicazioni, ma visto che non esiste un Ministero per le Comunicazioni, Paolo Romani è sottosegretario appunto al Ministero per lo Sviluppo Economico. Il mondo sta cambiando perché le nuove generazioni si stanno abituando a un modo di lavorare, di relazionarsi, di utilizzare il tempo libero in cui la connessione alla rete diventa sempre più importante, diventa anche fondamentale. Lo dico per i giovani, ma lo dico anche per coloro che hanno i capelli bianchi come me. L'altra sera ho scoperto che il capo dell'opposizione su Facebook ha 2300 amici e quindi anche noi ci dobbiamo mettere in competizione. Quindi è una rete che viene utilizzata a tutti i livelli, sicuramente i giovani, ma anche i meno giovani. E nel dibattito sul futuro delle comunicazioni c'è chi sostiene che le reti attuali abbiano banda a sufficienza per i servizi che ci servono e che quindi non ci sia motivo di pensare a investire in NGN, in reti di nuova generazione. È indubitabile che fino ad oggi non sia emersa quella che si chiama nel gergo killer application, che doveva giustificare lo sviluppo di reti a larghissima capacità. Ma a nostro avviso questa opinione è miope perché non tiene conto dello straordinario impatto sulle reti di milioni di persone che si connettono, lavorano, parlano, producono contenuti. È evidente che questo fenomeno non esploderà dall'oggi al domani, per cui una rete di accesso in fibra ottica non serve sicuramente domani mattina, ma è probabile che fra 5 anni, e 5 anni passano velocissimamente, servirà in molte parti del paese, anzi in quasi tutte le parti del paese, e quasi certamente servirà tutto il paese per i prossimi 10 anni. Come governo italiano vogliamo essere preparati e consapevoli, ma agire su due fronti. Il primo, aumentare la conoscenza dei fenomeni. Il secondo, giocare un ruolo di stimolo positivo sui processi in corso. Un primo passo in questa direzione è la creazione di una commissione, un gruppo di lavoro che diventerà operativa tra circa un mese, comunque prima di Natale, lavorerà per circa 3 mesi sotto il coordinamento di Francesco Caio, uno dei migliori manager che il settore delle comunicazioni abbia conosciuto negli ultimi anni. È stato definito anche super consulente. Caio ha fatto un lavoro analogo in Gran Bretagna per fare capire al governo che cosa è necessario fare per la costruzione di una rete di prossima generazione. Contiamo di avere presto Caio ospite nei nostri studi, comunque ai nostri microfoni. Cerchiamo il più possibile di portare le persone davanti ad un microfono, evitando il telefono quando non è strettamente necessario, insomma, per offrirvi anche una migliore qualità audio. Però oggi vogliamo parlare di reti di prossima generazione, di questa Next Generation Network. Questo è un dibattito molto importante per il sistema paese, per il sistema delle comunicazioni, ma anche banalmente per il collegamento che ognuno ha, che molti italiani hanno a casa propria e che purtroppo ancora molti italiani non hanno, perché la diffusione di questa rete non è così capillare come molti vorrebbero, e sono molti gli ascoltatori che scrivono a 2024. Bene, ne parliamo con Stefano Quintarelli, un altro dei grandi esperti della rete. Stefano, bentornato a 2024. Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dunque, partiamo proprio da qua. Diamo per scontato, perché sono cose che abbiamo detto e sentito molto spesso in questi giorni, quanto costano queste reti, quanto costerà in Italia, sono ipotesi, poi nel corso degli anni, come spesso succede, anche i costi di realizzazione cambiano molto. Ma per farci che cosa? Quali sono le ipotesi che possiamo fare oggi su reti di prossima generazione? Ricordiamo, quando parliamo di queste reti, parliamo di reti che potranno superare i 100 megabit, ma forse anche molto di più, di velocità. Poi, per capire anche se effettivamente ne avremo bisogno. Sì, certo. Ma bisogna intanto cominciare con una considerazione, ed è che spesso si ha l'impressione che un operatore di telecomunicazioni, se vede un elefante con le unghie pitturate di rosso, non riesca a riconoscerlo dalle fragole. La tendenza generale è quella di pensare che il video, ovvero il video on demand, la sostituzione della videoteca, l'utente che da casa guarda il proprio film, sia la cosa che darà impulso all'utilizzo di banda e che quindi richiederà l'espansione delle reti, della portata delle reti. Se guardiamo però al mondo quello che sta succedendo, il più grande fenomeno su internet è YouTube, che non è certo ad alta definizione, ma al di là di quello, YouTube utilizza una tecnica di trasmissione del video per cui trasferisce tutto il video presso l'utente e poi un po' alla volta, man mano che arriva, però anche poi un po' alla volta dal computer dell'utente il video viene fruito, quindi non più dalla rete perché è già arrivato sul computer dell'utente. Questo cosa significa? Significa che non necessariamente la portata delle reti deve essere dimensionata sulla capacità di trasmissione del video, ma anzi tipicamente sarebbe bene se fosse sovradimensionata, perché l'utilizzo che si fa delle reti tipicamente è a picchi. Quindi dobbiamo pensare a un sistema che non è dimensionato per erogare 23 milioni di flussi contemporanei video alle persone, bensì 23 milioni di piccolissimi picchi istantanei di tantissima banda in più per distribuire tutto questo contenuto agli utenti. E questo soddisfa quella che è la principale killer application delle telecomunicazioni. Se ci pensiamo un attimo, il raggio di vita delle persone quando è stato introdotto il telefono era il paese, il paesino. E nel paese non era necessario il telefono, no? Uno poteva scendere e andare a parlare dall'altra parte della piazza. Le telecomunicazioni restringono il mondo, aumentano il raggio ambientale delle persone e soddisfano un'esigenza umana primordiale, che è quella dell'impazienza. Col telefono riuscivamo ad essere più in fretta a contatto con le persone che ci interessavano, con il messaggio di testo uguale, con il fax uguale, con la posta elettronica lo stesso. Quindi non credo che ci sia una singola applicazione da individuare, come spesso si dice, la telemedicina e così via. Ecco, io non credo che ci sia una sola singola ragione, credo che la ragione sarà fare più in fretta le cose che facciamo già in tutte le sue forme, magari anche più ricche, magari anche cose nuove che oggi non vediamo, ma soprattutto farle più in fretta e non pensando a un uso continuativo, la trasmissione di un flusso, bensì ad uso a picchi, come appunto la trasmissione del video con YouTube. Stiamo parlando di reti di prossima generazione, quella che gli esperti definiscono Next Generation Network, ma stiamo parlando di una rete o di più reti. Oggi cerchiamo di capire anche che cosa farci su queste reti che vedremo tra 5, 10, forse 15 anni, fra molti anni anche in Italia. I lavori costeranno molti soldi e gli operatori di telecomunicazioni principali stimano che in tutta Europa si parli di 300 miliardi di euro per costruire queste reti. In Italia si parla di 10-15 miliardi, ma probabilmente ne serviranno di più. Ne stiamo parlando con Stefano Quintarelli. Vogliamo capire allora, parliamo di una rete in fibra ottica e questa sarà, come ritengono alcuni, la rete di prossima generazione, o parliamo di più reti, quindi un incrocio, un mix di reti fisse cablate in fibra ottica e anche reti wireless? Ma e questa è una domanda molto difficile. La risposta anche qui non è mai bianca o nera. La situazione sarà sempre in evoluzione. Il limite a tendere sarà quello di una rete fissa fatta in fibra che arriva fino nelle case. Questa è la situazione a tendere. Di fianco a questa ci sarà un potenziamento della rete wireless, quindi della rete di accesso, diciamo, oggi usata dai cellulari, e tutte forme ibride, il WiMAX, l'Hyperlan, il wifi non si presta a questo tipo di cose, però quindi ci saranno tutta una serie di tecnologie, ma la cosa in assoluto, cioè se dobbiamo fare i grandi numeri, il 90% sarà una rete in fibra che arriva nelle case. Questo attendere, come da qui arriviamo là e quando arriveremo là, questo è un altro bel tema. Sì, anzi, penso che parleremo di questo ancora per molti mesi o forse anche per molti anni. Ma quindi mi sembra di capire che si può dire che la rete di prossima generazione, o comunque una rete così performante, così veloce, è necessaria. Sì, allora, diciamo che soddisfa un'esigenza primordiale delle persone, e questo l'abbiamo detto, al di là del tipo di applicazione che possiamo fare. No, il web non è altro che un'altra manifestazione di questo, dell'impazienza delle persone, avere tutte le informazioni. Guardiamo, io quando guardo la televisione, quando mi capita di guardare i miei video che mi sono messi via con il mio servizio, quando guardo i miei video, magari contemporaneamente vado a cercare su Wikipedia i riferimenti alle scene storiche che sono riportate. Quindi è questo, anche questo è un esempio di impazienza, un'applicazione nuova che prima non era possibile, che soddisfa l'impazienza. Quindi è necessario in questo senso. Però non è solo questo, no? C'è anche il fatto che la rete in rame attuale, la rete di accesso, il rame che entra nelle nostre case, ha una portata limitata, cioè oltre un certo numero di utenti collegati a questa rete in rame, ogni cavo che ha dentro un centinaio di fili, ecco, oltre un certo livello di occupazione di questi fili il sistema comincia a non funzionare più. Quale sia questo livello dipende un po' dalle condizioni ambientali, però diciamo oltre un certo livello comincia a non funzionare più. E allora cosa devo fare se nelle zone densamente abitate ho una richiesta eccessiva rispetto a questo limite? Devo mettere del rame nuovo, ma allora se devo mettere del rame nuovo mi conviene mettere la fibra, che costa molto di meno e soprattutto ha dei costi operativi, dei costi di gestione che sono assai inferiori. Cioè i tassi di guasto tra la rete in rame e una rete in fibra sono due ordini di grandezza, cioè una è un centesimo dell'altra, cioè la rete in fibra si guasta 100 volte meno della rete in rame. Questo naturalmente ha anche delle implicazioni poi sul livello di occupazione delle persone che devono fare la manutenzione. Cioè è un tema molto complesso ed articolato. Dal punto di vista quindi tecnico, per l'operatore passare dalla rete in rame alla rete in fibra è un vantaggio. C'è anche un'altra questione, che è che spesso e volentieri si pensa di sostituire l'accesso DSL con un accesso che viene anche chiamato DSL cellulare, diciamo HSDPA, insomma un accesso via rete mobile dati a larga banda. Ecco, se io ho una rete ADSL che offre delle prestazioni confrontabili alla rete cellulare, beh, potrei avere anche l'interesse a migrare, a cancellare il mio canone sulla rete fissa e usare solo la rete mobile. Se la rete fissa invece mi dà performance, prestazioni che sono 100 volte maggiori o decine di volte maggiori, beh, magari sono più interessato allora a tenere anche quello, perché effettivamente va a soddisfare un'altra mia esigenza, e quindi questo può contribuire anche al bilancio degli operatori. Alcuni parlano di 50-100 megabit, in Giappone invece il punto di riferimento è ormai il gigabit. Di che velocità stiamo parlando? Sì, allora bisogna capire una cosa, che la fibra ottica ha una capacità infinita. Le performance della fibra ottica sono determinate dalla qualità degli apparati che si mettono agli estremi. Per capirci, è un po' come se per aumentare la portata di un'autostrada non occorresse aumentare il numero di corsie, ma fosse sufficiente cambiare i caselli agli estremi. E quindi va da sé che man mano che la tecnologia evolve e il rapporto prezzo-prestazioni dell'elettronica che mettiamo agli estremi della fibra migliora, ovvero il prezzo diminuisce, le prestazioni aumentano, le performance continueranno ad aumentare. Chi aveva già la fibra, che ha cominciato con i 10 megabit, poi 100 megabit, poi 2,5 gigabit, adesso potrà, cioè il limite è l'infinito. Stiamo parlando di velocità sempre più elevate, ma spesso gli ascoltatori scrivono parlando di prezzi. In un mercato come quello che conosciamo oggi, dove ci sono tutta una serie di regole, alcuni prezzi sono stabiliti dall'autorità, quindi i margini di movimento degli operatori sono comunque abbastanza limitati, tu vedi un aumento solo delle velocità o anche una diminuzione dei prezzi? Allora, questo è un altro argomento non facile. Sto scrivendo un articolo su questo che darò a pubblicazione prossimamente, che troverete anche sul mio blog, quindi proprio su questo tema dei prezzi. I prezzi sono regolamentati dall'autorità delle comunicazioni, quindi c'è una sorveglianza sui prezzi nelle telecomunicazioni, sia per quanto riguarda i prezzi all'ingrosso della materia prima, sia per quanto riguarda i prezzi della telefonia al dettaglio, quindi quello che noi paghiamo quando andiamo a telefonare. Però i prezzi al dettaglio della larga banda non sono regolamentati, quindi c'è una piccola asimmetria delle regole, per cui abbiamo i prezzi all'ingrosso regolamentati e i prezzi al dettaglio per la larga banda non regolamentati. Per larga banda intendiamo ADSL prevalentemente. ADSL, fibra, qualunque cosa, sì. Non sono regolamentati. Questo ha un'implicazione, che se per ragioni varie è necessario aumentare il canone, come adesso viene richiesto da Telecom Italia, il canone all'ingrosso, e corrispondentemente aumenterà il canone al dettaglio per la telefonia, e il canone all'ingrosso aumenta, però per la larga banda il canone al dettaglio non aumenterà, e questo metterà sotto pressione i margini degli operatori alternativi che fanno offerte di larga banda. La situazione è veramente molto complicata. Attendere, quello che si può dire è che nel passato i prezzi dei servizi di telecomunicazione sono crollati. In futuro, e questo perché in sostanza siamo andati a sfruttare sempre di più le infrastrutture esistenti. Oggi che è necessario, oggi, nei prossimi anni, che sarà necessario fare un passaggio a un'infrastruttura alternativa, visto che abbiamo trasferito agli utenti una parte dei benefici, dei margini, questa cosa, una parte è stata trasferita anche agli azionisti, e beh, io temo proprio che bisognerà andare a pensare che si va incontro a un aumento dei prezzi per i servizi di telecomunicazione, in prima battuta sulla rete fissa, e poi nel medio periodo, nel breve medio periodo i prezzi della rete wireless tenderanno a calare, dopodiché secondo me cominceranno a aumentare anche lì. Bene, io ringrazio Stefano Quintarelli per essere stato con noi. Ci sono altri tanti argomenti da discutere, ma visto che questo è un processo che durerà qualche anno, abbiamo tempo per ridiscuterne. Ne avremo a noia. Bene, grazie, a presto, buon lavoro. Come avete sentito, una volta che esiste una rete in fibra ottica, ma questo è in buona parte del territorio il problema, di questo si sta discutendo, ma diciamo che molte dorsali, oramai tutte le dorsali, le grandi connessioni della rete internet sono in fibra ottica. E come dicevamo poco fa, per aumentare la capacità di queste reti è necessario e basta, è sufficiente, potremmo dire, aumentare la capacità delle macchine che trasmettono i segnali all'interno della fibra ottica, quindi gli impulsi di luce, e la capacità di quelle, delle stesse macchine che poi ricevono questi segnali, li decodificano e poi li ritrasmettono su tutta la rete. Ci sono molte aziende che stanno investendo risorse e tempo e ricerca in questa direzione. Una di queste è un'azienda americana, si chiama Infinera. Ne abbiamo parlato con Rick Dodd, che è responsabile marketing di Infinera, che recentemente è venuto a trovarci nei nostri studi. First of all, Infinera really sits in the core of the internet. Beh, prima di tutto potremmo dire che Infinera è nel cuore di Internet. Siamo al livello in cui le comunicazioni sono trasmesse sotto forma di luce, impulsi di luce tra le città, le nazioni o i continenti. Siamo la prima, e ancora l'unica, società di circuiti fotonici integrati. L'idea che sta dietro ai circuiti fotonici integrati è molto simile all'idea che stava alla base dei circuiti elettronici degli anni 50. Naturalmente noi non scenderemo nel dettaglio tecnico, questo significa che un po' come nel corso degli anni il numero di transistor su un singolo chip, su un processore di un computer ad esempio, si è moltiplicato fino ad alcuni milioni e in alcuni casi alcuni miliardi, anche nei circuiti fotonici è successa la stessa cosa. I circuiti fotonici sono quelli, insomma, che inviano segnali attraverso le fibre ottiche, i segnali che corrispondono magari ad un click sul nostro computer. Ma al di là di questi tecnicismi, qual è il vantaggio di questa nuova tecnologia? Rick Dodd. Penso che ci siano alcuni grandi temi che riguardano oggi la banda larga. Il video è sicuramente uno di questi. Se guardiamo a come usano la rete oggi molte persone rispetto a 5 anni fa, non c'è dubbio che Internet sia usato molto per contenuti video destinati all'intrattenimento e in alcuni casi anche per scopi commerciali, come ad esempio le videoconferenze, per evitare di prendere l'aereo, ma interagire grazie a contenuti sempre più ricchi, anche se ci si trova a molti chilometri di distanza. E, come voi sapete, il video consuma molta più banda rispetto alle immagini. E quindi tutta questa capacità di banda richiede che la rete sia scalabile, che venga ridotto il costo per bit e la complessità. Allo stesso modo in cui il vostro computer ha oggi più transistor su un singolo chip, le performance sono sempre più alte e le applicazioni più ricche. E così concludiamo la nostra puntata, questa puntata di 2024 che troverete anche su internet a partire dalla prossima settimana, dai primi giorni, da lunedì della prossima settimana, sul nostro sito www.radio24.it, naturalmente nelle pagine di 2024. Come sempre vi consiglio di abbonarvi al servizio podcast per scaricare gratuitamente la nostra trasmissione settimana dopo settimana e aggiornare il file MP3 per poi riascoltarlo dove volete, quando volete, sul vostro computer, sul lettore di file MP3 oppure su un CD, su una chiavetta USB. Insomma, ci sono varie modalità per riascoltare 2024. Grazie a Luigi Borghi in redazione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, 2024. Torniamo la prossima settimana, sempre il sabato, nel pomeriggio di Radio 24, tra le 15.30 e le 16.30. Io sono Enrico Pagliarini, vi ringrazio per la vostra attenzione. Appuntamento tra 7 giorni. You are disconnected.